questo giovedì 10 maggio. Intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore apre sul dramma credit crunch per le imprese italiane. Prestiti alle imprese fermi a crescita zero. Questo è il titolo di apertura. E anche l'economia è sul Corriere della Sera. Investimenti, piano di Monti. Investimenti, il piano italiano è il titolo invece di apertura del Messaggero. L'Unità, governo, i pentiti del rigore, Fornero ammette è mancata l'attenzione ai sofferenti. E il Manifesto, i disoccupati occupano, la Fiat ha chiuso ed è scappata, la produzione ferma da novembre e oggi busserà al Ministero dello Sviluppo. Il nuovo imprenditore che avrebbe dovuto rilevare la fabbrica e i suoi lavoratori non riesce a ottenere i fondi e dunque Termini Imerese muore nel silenzio generale. Queste le aperture dedicate ai temi economici. Poi c'è la politica per Repubblica, PDL parte l'assedio a Monti, la Stampa, PDL Monti, alta tensione sulle colpe della crisi, Libero, Monti salterà. Ecco il piano. E il Giornale, PDL, ore decisive con il tema staccare la spina. Dunque vedete, uno dei temi è questo, l'appoggio politico al Premier Monti. Per il Fatto Quotidiano ancora Grillo in primo piano, Grillo sfotte i partiti, senza di me vi beccavate i fascisti. Queste alcune delle aperture. Per Avvenire invece la situazione. Tasse, esattori, nuove regole, Befera al Parlamento, cambiare le norme sul fisco e la riscossione. Vedremo, ieri Befera ha fatto una conferenza stampa anche dai tratti molto molto tesi a Genova. Intanto però buone notizie, lo so, gli italiani vorrebbero cancellare i rimborsi elettorali subito. Per la verità avevamo anche votato un referendum per cancellare il finanziamento pubblico ai partiti, poi rientrato dalla finestra. Eppur si muove, si potrebbe dire, perché i partiti si sono messi d'accordo e hanno deciso che almeno la tranche di luglio, quella che dovevano cancellare, quella che tutti ha sprombattuto, ha detto no, no, quella di luglio non la possiamo prendere, questi 180 milioni sarebbe una vergogna, diamo un segnale, non prendiamoli. Vabbè, accontentiamoci, si sono messi d'accordo per prenderne solo la metà. Prenderanno 91 milioni di euro invece dei 182, ma l'obiettivo è quello di dimezzare i rimborsi ai partiti a partire appunto dalla prima tranche di luglio, quindi dal pagamento di quest'anno, per sempre. Dunque soldi ai partiti, taglio del 50% già da luglio, l'effetto Grillo viene definito sul Sole 24 Ore, a pagina 12 c'è l'articolo di Emilia Patta. Italia, rimborsi elettorali saranno da subito del 50% a partire dalla rata di luglio. Cari italiani, accontentiamoci, se davvero lo faranno, perché se, sempre bisogna utilizzare il se davvero lo faranno, non so, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, almeno il 50%, al 50% vi rinunciano, anche se avevano detto quelli di luglio non li prenderemo in toto. Però l'effetto Grillo è stato immediato e dirompente, tanto da infrangere anche le ultime resistenze di UDC e PDL. Il dimezzamento parte da subito, anche per la Stampa, al titolo a pagina 11, c'è l'accordo, rimborsi dimezzati. Scenderanno da 182 a 91 milioni l'anno. E anche per il Quotidiano Nazionale, effetto voto, i partiti ci ripensano, dimezziamo i rimborsi di luglio. Insomma, qualcosa è stato fatto. O meglio, qualcosa non è stato ancora fatto, è un accordo politico, ma noi vi terremo aggiornati ovviamente. Certo, credo che non si tornerà più indietro, altrimenti il voltafaccia sarebbe accolto come dagli italiani, almeno questo dimezzamento. Vi voglio segnalare anche questa notizia, prima di andare alla pubblicità, che trovate a pagina 9 del Corriere della Sera, e che è una vicenda che riguarda le amministrative. Riguarda il comune di Cimolais, se siamo in provincia di Pordenone, racconta Elsa Muschella sul Corriere della Sera. Il titolo è: il finto candidato diventa sindaco. Se valeva per la casa Vista Colosseo o i fondi padani di partito, varrà bene per una candidatura ad alta quota. Considerato l'insaputismo quale categoria emergente della politica italiana, se analizzi il caso di Cimolais, dove è successo questo, cari ascoltatori. La sera prima di presentare le liste, Gino Bertolo, 65 anni, già sindaco in quel paese, ha chiesto una cortesia a Fabio Borsatti, 50 anni, titolare di un hotel, e gli ha chiesto: candidati anche tu, per favore, con una tua lista, falla così alla bella e meglio dall'oggi al domani, perché così evitiamo di non raggiungere il quorum, evitiamo eventuali commissariamenti. E l'albergatore amico dice: va bene, accetto, metto su una lista. Ha fatto una lista dal nome Tremenigia, che è il nome di un fiumiciattolo, un fiume di quelle parti, con un simbolo nero, che è il simbolo del fiume che scorre. Ha messo su 4 persone, 5 persone, 6 persone, ha fatto una lista per fare un favore. Risultato? È stato eletto lui sindaco. È stato eletto lui che non è stato chiamato il giorno prima, mentre il candidato sindaco ha perso. Risultato: 117 voti, infatti, per il candidato sindaco che ha fatto tutta la campagna, 160 per lui che ha fatto un favore il giorno prima. Chiamato da un giornalista: guardi che lei è stato eletto. Ma che eletto, che sto organizzando la festa a scudetto della Juventus, mi lasci in pace. E ha messo giù. Invece no, è stato eletto sindaco e poi si è ripreso nel giro di 2 giorni e adesso parla già come un politico. Dice: ho meditato, sto costruendo qualcosa con dei ragazzi giovani. Ho capito, ma gli hanno detto: ma lei, quello che si era candidato sindaco, che l'ha tirata dentro per fargli un favore, almeno lo farà vice sindaco? E adesso vediamo se lo faccio vice sindaco, perché sto parlando con alcuni giovani, se mi dicono che accettano le mie idee, io tenderei a escluderlo. Gino, ormai ne parla così, tenderei a escludere, non è detto che lo faccia vice sindaco. D'altronde il voto è stato unanime, a mio favore. E se dovessi farlo vice sindaco, magari mi ritrovo le ruote della macchina tagliate. Chi lo sa, in questo mondo balordo potrebbero farmi anche dei dispetti. Forse non lo hanno votato per protesta. Eccolo lì, il caso di Cimolais, il finto candidato diventa sindaco e dice: non mi dimetterò. Il voto è stato unanime. Succede anche questo alle amministrative italiane. Ora ci fermiamo per 8 minuti, faccio un pisolino oggi. 24 mattino. Eccomi qua, ridestatomi giusto appunto per continuare la lettura dei giornali con la notizia politica del giorno. Certamente è questa: il Popolo della Libertà, il centrodestra, staccherà la spina, lo so, brutto termine, ma questo si usa in politica, al governo Monti, facendo cadere il premier. Su questo si stanno interrogando all'interno del partito, con le divisioni tra i cosiddetti falchi e quelli più invece moderati. Berlusconi e il governo: genera pessimismo ma serve tempo, ancora rischi sui mercati. Così a pagina 5 un'intera pagina di Paola Di Caro. La battuta di uno dei big del PDL dà bene il senso della situazione. Monti fa il professore, ci vorrebbe mettere in riga come i bravi studenti, ma dovrebbe saperlo che ogni tanto gli studenti alla scuola gli danno fuoco. Una tensione all'interno del partito che è altissima, racconta Paola Di Caro. Berlusconi avrebbe detto nella riunione ristretta: è davvero difficile decidere cosa fare, le elezioni in fondo sono andate meno peggio di quanto pensavamo, in un momento così difficile avevamo sondaggi perfino peggiori, in certi casi abbiamo sbagliato i candidati, in altri non c'è stato niente da fare, ma è vero che l'azione di governo ha gettato l'Italia nel pessimismo, nel paese c'è ormai un clima di disperazione. Per questo, ancora Berlusconi, il voto è una cosa alla quale non possiamo non pensare. Siamo tutti tentati, lo sapete, io compreso. Il problema, raccontano i giornali, tornano ovviamente di scena i retroscenisti della politica, è che si dovrebbe attendere un pretesto per far cadere il governo Monti. Secondo il giornale, l'ideale sarebbe per Berlusconi, sarebbe perfetto se l'esecutivo cadesse non per mano nostra. E sì, perché il giornale, che titola "Nel PDL cresce la voglia di governicidio", anche Libero, giornale anche lui vicino a quello che succede all'interno del centrodestra, titola così: c'è il piano per buttare giù Monti, è sicuro il direttore Maurizio Belpietro, Monti salterà, ecco il piano. Questo è il titolo di prima pagina. Bersani, e quindi si tira in ballo il PD, vuole votare a ottobre con il centrodestra allo sbando, i grillini che spolpano Italia dei Valori e SEL, vale a dire il movimento di Vendola, si cerca solo un pretesto. Dunque, in realtà, la vera aspirazione, secondo Belpietro, è per il Partito Democratico di andare al voto a ottobre, visto che i risultati elettorali hanno dimostrato che in questo momento forse è il momento migliore, o si potrebbe dire meno peggiore, per il Partito Democratico per andare al voto rispetto al Popolo della Libertà. E allora qui così viene letta, per esempio, da tutti i giornali, anche su Repubblica, l'accelerazione da parte di alcuni parlamentari, per la precisione 42 tra onorevoli e senatori, che ieri hanno firmato un documento facendo una vera e propria offensiva, racconta a pagina 2 di Repubblica Alberto D'Argenio, offensiva contro Monti, un'azione parlamentare per chiedere al Premier di spiegare il significato della frase dell'altro ieri sulle conseguenze umane della crisi. È un dovere etico e politico, scrivono questi 42 parlamentare del Popolo della Libertà, che il Premier vada in aula a dire a chi si riferisse, altrimenti, ecco qui che scatta la minaccia, ci saranno conseguenze e valutazioni politiche. Dunque il Popolo della Libertà utilizza la frase detta da Monti, quella sulla quale lo stesso Monti poi è tornato parzialmente indietro, sulla questione della crisi, le conseguenze umane, qualcuno ha messo in bocca la parola suicidi, che in realtà Monti non ha mai citato, per dire: ora chiarisca, ci chieda scusa di fatto, altrimenti ci saranno conseguenze politiche. Insomma, la fibrillazione politica è tanta, tanto che per il Corriere della Sera Marco Galluzzo a pagina 3, in Mario Monti è subentrata e comincia a subentrare l'amarezza. Attacchi continui, l'amarezza del Premier. Come sarei felice di saldare subito i debiti, per esempio, ha detto Monti dal punto di vista dell'economia. Peccato che non possa farlo, evocando lo spread, ha detto così. Ma soprattutto, chiamatela se volete amarezza, forse sono i primi segnali di una stanchezza. Di certo nelle ultime ore la comunicazione del Premier è cambiata, negli ultimi giorni si è anche spinto più in là, i ragionamenti sull'appoggio esterno del Popolo della Libertà lo hanno lasciato stupefatto, quella di una potenziale costante revisione parlamentare sui provvedimenti più importanti del giorno, così come le polemiche sull'IMU, lo hanno invece innervosito, tanto che più volte insieme ad altre persone per la prima volta ha avanzato l'ipotesi di togliere il disturbo. Chi lo conosce, scrive Marco Galluzzo, interpreta in questo modo: lui è abituato a incassare elogi interni, internazionali, incassa meno bene i riti, le critiche e il linguaggio della politica italiana, con i suoi collaboratori che gli dicono: guarda che si è tecnici fino a quando non si mette piede nel palazzo, come dire, non ti curare delle critiche. Evidentemente anche per il carattere di Mario Monti non è così semplice. Chi invece frena su questo, se da un lato Libero, il Giornale e i falchi cosiddetti del Popolo della Libertà dicono bisogna forse accelerare, hanno fatto notare su Repubblica per esempio che ieri Berlusconi ha incontrato per un'ora Daniela Santanchè, falca tra i falchi o falco tra i falchi. Chi invece decelera su questo è Giuliano Ferrara, che firma un lungo editoriale sul Foglio in prima pagina dal titolo «Muoversi o perire». I tenori della destra, i falchi, vogliono rompere con Monti. Vasto programma. Ma dice Ferrara, ci sono le condizioni, si può fare una rivoluzione anti-euro? No. E allora bisogna unire centro e destra, tutti per l'Italia, rilancia questa idea Ferrara. Andiamo, via, non facciamoci ridere dietro, scrive Ferrara. Ci sono le condizioni per rompere il ciclo dell'euro, ne abbiamo la forza, ce la dà Hollande questa forza? No, non ci sono. E allora, visto che la rivoluzione non si può fare, visto che ci tocca partire dal pareggio, addirittura in Costituzione, visto che facciamo parte di una carovana, la cura è, con tutti i correttivi indispensabili, quella di Monti e soci. Inutile spacciare illusioni, inutile pensare che la questione delle tasse si ponga oggi come quella scelta che ieri era forse possibile tra modelli diversi di sviluppo dell'economia, inutile prendere per il sedere la gente, perché alla fine il risultato di un'Italia che si ritira dai compiti a casa, che rompe l'equilibrio per un'alzata d'ingegno di Berlusconi, che fu l'autore della soluzione decisa a novembre insieme a Napolitano sotto la sferza della Merkel, è la rovina di chi si ritira. Non è che alla fine sono tutti bamba e tutti sono pronti a bersi che una rivolta oggi è un uovo migliore della gallina domani. Dunque non si può. E allora ecco l'appello: Berlusconi rinvii, riproponga e imponga il patto tutti per l'Italia per mettere in imbarazzo grave la sinistra di Vasto, indurla a più miti consigli. Il popolo seguidato seguirà. Questa è la linea di Giuliano Ferrara. Lo stesso retroscena di Repubblica di Francesco Bei a pagina 3 è questo: gli italiani, avrebbe detto Monti, non perdonerebbero l'ennesimo disastro di un ritiro da parte di Berlusconi. Lui è il primo a saperlo. E poi come fa in queste condizioni ad andare al voto? Con chi ci va? Queste sarebbero le considerazioni di Mario Monti, ovviamente non confermate, sono tutti virgolettati di retroscena, nei confronti della scelta di Berlusconi, che effettivamente si fa sapere fa fatica a tenere i suoi, fa fatica a tenere soprattutto i falchi. Chi gongola in questo momento politico è ancora Beppe Grillo. Da lui ripartiremo dopo le informazioni sul traffico, dal suo diktat soprattutto: non andate in TV. Questo ha detto ai suoi. Allora, il diktat di Grillo, che ha detto ai suoi: non andate in TV. Ormai chi va in TV nei talk show, lo ha detto dopo che il candidato di Genova è andato in TV, o credo a Ballarò, fa una scelta di campo. Come dire, tradotto, chi è dentro e non va in TV, e chi va in TV è fuori dal movimento. E la bacchettata arriva via blog sulle dita di Paolo Putti, scrive Repubblica. Se il Movimento 5 Stelle avesse scelto la TV per affermarsi, oggi sarebbe allo zero qualcosa per cento. Partecipare ai talk show, sentenza Beppe Grillo, fa perdere voti e credibilità. E dunque, che senso ha che confrontarsi con Veltroni o con Gasparri in prima serata? Più che spiegarlo e ribadirlo non posso farlo. Chi dei nostri partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi farà una scelta di campo. Una vera e propria scomunica dettata, racconta il Fatto Quotidiano, che analizza il fenomeno Beppe Grillo da chi? Dal guru di Beppe Grillo, che è Gianroberto Casaleggio e che è tratteggiato in un ritratto da Emiliano Liuzzi, lo trovate a pagina 2, il guru Gengis Khan e il cerchio magico del Movimento 5 Stelle, un rapporto nato dopo uno spettacolo con Gianroberto Casaleggio. A quel tempo già il movimento non esisteva, ma Grillo incontra Casaleggio, intuisce che dietro a quegli occhiali si nasconde una persona capace di vedere lontano, e dunque nel 2004 nasce questa società, e Grillo vuole a tutti i costi solo per sé. Casaleggio ha intuito che può fare il salto di qualità, così nel 2010 si arriva alla rescissione del contratto tra Casaleggio e Di Pietro, perché lui prima si occupava del sito dell'Italia dei Valori. E da quel momento Casaleggio è diventato per tutti il guru di Beppe Grillo. Un salto di qualità. Non è un caso che da quel momento in poi Grillo diventa un fenomeno che spaventa la politica, perché Casaleggio sa meglio di ogni altro in Italia come si applica la politica internet, o viceversa. Con Grillo si sentono 2 o 3 volte al giorno, le strategie vengono pianificate al telefono con minuzia e particolari. Andate a vedere gli spettacoli di Grillo, ci sono delle cose che il comico saprebbe improvvisare, e molto bene, ma invece recita da copione, perché sono le parole chiave che Casaleggio ha detto che funzionano. E anche tutti i candidati del Movimento 5 Stelle devono passare attraverso un colloquio di 3 ore negli uffici di Casaleggio a Milano, dove i candidati vengono istruiti in una full immersion comunicativa, un incontro di 3 ore molto utile. Per esempio lo ha definito il candidato a Parma sindaco Federico Pizzarotti. In ogni caso, il diktat di Beppe Grillo, anche per il giornale, spadroneggia il guru Casaleggio nel suo movimento. Noi ci abbiamo provato anche a intervistarlo, devo dire, abbiamo fatto una richiesta che però è ancora lì per Casaleggio. Poi il diktat è non andato in TV. Ieri avevamo un esponente del Movimento 5 Stelle, Giovanni Favia, spero che non valga anche per la radio, lo appureremo nei prossimi giorni, vedremo di invitare qualcuno del Movimento 5 Stelle e capire se vale anche questo diktat a non partecipare anche per la radio. L'economia invece torna al problema degli esodati, torna nel senso che il problema c'è sempre, ma torna in prima pagina perché il governo con il ministro Fornero ha deciso di fare un decreto per trovare risorse, ma un decreto che scontenta i sindacati. Le risorse sono infatti solo per 65.000 esodati. Questo è il titolo a pagina 8 del Sole 24 Ore. Manca infatti la copertura per gli esodandi. Beh, siamo un paese straordinario. Cioè, ci sono gli esodati, ma non ci sono i soldi per gli esodandi, che sono quelli, immagino, che stanno per essere esodati. Sono esodandi in procinto di essere esodati. Ah, che paese straordinario. Giorgio Pogliotti, il decreto interministeriale sui 65.000 lavoratori cosiddetti esodati che nel prossimo biennio potranno andare in pensione coi vecchi requisiti è pronto, sarà emanato entro maggio. E quello che ha detto il ministro Fornero, ovviamente, per questi lavoratori invece, per i lavoratori esodandi, non c'è copertura. E alle sollecitazioni del sindacato il ministro ha risposto: mi prendo tutta l'impopolarità di un decreto impopolare. Una ministra Fornero che tra l'altro ieri ha anche detto si è fatto poco per tutelare le persone in difficoltà, insomma, quindi un mea culpa. Anche per Avvenire, Fornero tira dritto sugli esodati e scontro, nonostante l'autocritica sul disagio, poca attenzione ai più deboli. Che dire invece di Befera, il capo di Equitalia, il direttore che ieri ha fatto una conferenza stampa, racconta il Corriere della Sera, pagina 31, con Erika Della Casa, anche dai toni concitati, tesissimo, si è asciugato la fronte con un fazzoletto bianco, ha risposto alle domande di alcuni giornalisti, in particolare quelli dell'Ultima Parola, no? Il talk show di Paragone, sulla serie di suicidi. E ha detto questa frase, io ve la riporto così: può essere il peso di importanza l'uso delle parole, è importante, no, l'uso delle parole. Befer ha risposto così: quello che succede mi dispiace da morire. E se n'è andato visibilmente scosso. Chi gli era vicino ha usato la parola sconvolto. Alla domanda «Lei come si sente per i suicidi?» «È una domanda molto dura», risponde Befera, «che mi mette in difficoltà dal punto di vista umano. Io non posso rispondere». C'è da dire che qui, ecco, l'uso delle parole magari mi dispiace da morire. Però certamente Befera ha tutte le ragioni del mondo quando dice «Per me è una continua sofferenza, ma noi applichiamo le leggi votate dal Parlamento. Volete dire che siamo cattivi? Non lo siamo. Cerchiamo di agire con prudenza, attenzione, ma ormai in Italia, quando si invia una persona una cartella di pagamento perché non ha pagato le imposte, questo atto viene vissuto come una vessazione». Insomma, ha ragione da vendere quando Befera dice «Noi applichiamo le leggi, le dobbiamo applicare. Siamo un'agenzia statale che risponde alle leggi dello Stato». Come dire, cambiate le leggi dello Stato e noi applicheremo leggi diverse. Infatti Avvenire punta su questo nel suo primo piano: riscossione, il Parlamento cambi le regole. Cioè Befera è andato poi in Parlamento e ha detto basta intimidazioni, noi lavoriamo per lo Stato, abbiamo subito 270 atti di intimidazione, vandalismi, hanno tentato di uccidere il direttore generale, una persona armata di pistola è entrata nei nostri uffici, una situazione drammatica, ma noi applichiamo le leggi dello Stato. Ci sarebbe stato tantissimo da leggere, per esempio, sul tema degli omosessuali e dei matrimoni omosessuali con Obama, che dice sì, ma siccome non c'è tempo, non c'è mai tempo, abbastanza, sufficienza, vi lascio con il rompipallone di Gene Gnocchi oggi in prima pagina della Gazzetta dello Sport. Berlusconi tranquillizza i tifosi. Rubi, Nicol Minetti e Polanco rimangono di sicuro. Ci fermiamo, è tempo di Giornale Radio.